La mia stela. Cos'ho nato, la mia nona, benedetta santa dona, la diseva. Bel pupin, quella stela s'el destin che il bon Dio te gadà. Nella notte la vien fora, la mia stela, la mendora. Son contento, co la vedo, la vardo brillar, e credo che la lusi sol per mi. Occio eterno, occio divin, varda sempre sto bambin. Quando ti te sta nel ciel, se sicuro sto putel, e i sui affani non l'ga più.